Altofest 2022, siamo in via De Pretis, questa è Radio Live, sono a casa di Deborah Di Lorenzo, in compagnia di Amalia Franco per Esercizi per Scomparire. Amalia Franco, un'artista indipendente la cui ricerca verte sulle contaminazioni tra danza, marionette, ibride e massa, lei stessa. Nella fattispecie esercizi è di Amalia Franco e Gianluca Vigone. Amalia. La prima domanda che ti vorrei fare è una citazione che ho ascoltato ieri dopo. Ah, è la domanda più difficile, quella a cui non ho saputo rispondere neanche al bambino. Allora, eterni questo desiderio, perché abbiamo mille buoni motivi, ognuno ha il suo. Ovvio. E invece una domanda è sulla composizione scenica, ovvero l'ibridismo con le marionette, il rapporto con le marionette, il movimento con le marionette. C'erano diversi spazi, io ho intravisto un universo di spazi di intimità con un qualcosa che è un oggetto, ma un qualcosa che l'oggetto quasi diventasse soggetto, e quindi la domanda è, in relazione a questa performance, quanti spazi di intimità, quanti rapporti con se stesso, di se stesso, fuori da se stesso? Ma le strade qui sono parallele, nel senso animato, e quindi poter esperire attraverso questa relazione il nostro stato di mancanza. Perché la marionetta è questa cosa moribonda, continuamente moribonda, è già morta prima di morire, quindi può morire in scena meglio di me, e mi permette appunto di esperire un rapporto di dipendenza, che è quello, dipendenza non necessariamente in un'ottica dove poi ci applichiamo anche sopra un giudizio, ma di connessione necessaria in qualche modo, che è quello che possiamo esprimere in altri ambiti. Parallelamente c'è il discorso dell'identico, nel senso che in questo lavoro le marionette sono sempre la stessa marionetta, e questo è un tentativo di uscire fuori dal soggetto, ovvero il soggetto è sempre lo stesso. Anche da questo punto di vista l'animato e l'inanimato permettono di rapportarsi non tanto al soggetto ma all'oggetto. Poi noi abbiamo questo di base, ovvero che rileggiamo necessariamente, nel senso che non sappiamo far diversamente, rileggiamo con occhio umano e quindi tutto quanto vediamo, è così che apprendiamo, quindi questo. Però c'è tra l'identico e l'inanimato un andare oltre l'umano ed oltre il soggetto. Ultimissima domanda e ti lascio andare. In relazione al tema poetico di Altofest, cos'è per te, quando dico io mondo, tu cosa pensi? Io ti riporto quello che ho scritto sul foglio di Altofest, che tra l'altro sono due esercizi per scomparire, perché gli esercizi per cercavo di essere rapida, gli esercizi per scomparire nascono come pensierini scritti, quindi riflessioni, e non tutti trovano spazio nel luogo della performance. Tra questi appunto vi erano due esercizi che ho messo insieme, ed erano hai sentito il vicino del piano di sotto, hai sentito ieri notte un rumore? Era il mio cuore. Ecco, diciamo che questo esemplifica per me bene questo discorso dell'io mondo. L'esercizio continuava dicendo che questo cuore lo sento battere, ma a un certo punto lo vedo dentro lo strapunto, poi lo vedo sotto lo strapunto, sotto il pavimento, ancora più sotto, e il suono è nitido e forte, nonostante io a un certo punto non lo veda più. Come continuo a sentire questo suono così forte? Provo a spostare lo sguardo, provo a cercarlo fuori dalla stanza, oltre la finestra, perché magari è qualcosa che non è di altro dal cuore umano. E questo è il mondo. Grazie mille.